gioia in te. Occhi e capelli bianchi, non era colpa mia. Alto che elegia, non eri ipocondria. A diventare scemo, ma che vuoi se non c'eri qua? Va verissimo, giudico mare d'Erica. Predica e scomma, tomma, tieniti la media e fai la somma. Spara quante deviazioni hai, troppe volte sai, forse non lo fai, quando mai? Non bevo il poltergeist, non faccio sconti parlando, capisci amore? Pesti ridicoli, un umore grigio da zettare reticoli. Volete avere avventure dei neide, paraocchi sulle tempie, cervo in formaldeide, e in te, o sei un freak con leggi, vuoto chi da denti vidi fare? Cacca elimino di cartone, cos'è uno stato symbol? L'uomo medio di GQ o le veline con il loro jingle. Io non distingo più la gente fra le folle di Cayenne in Cayenne. Non c'è niente, solamente ballo, mille passe. Le stere coda napster, conosci il detto, la mia vita non la calo, me le inietto. Avete limiti, un bel più di Paolo Andagussi, profeti del 2000, succhiatemi. Fuck i vostri messaggi, mo se vendo miraggi, che dovrei imparare da tutte ste masse di gaggi. Che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. Meglio che bacchettoni, che volete da me? Siamo noi il merda del mio stile di vita, voi chi siete per me? Fanculo i vostri miti e le canzoni, allontanatevi per miglia. La vostra moda stronza dello shaman di Versilia. Volete essere VIP, colpi di bisturi in TV. Quella che tirate non è coca di DDT. La somma luce non è poca, che a voi non vi invade. Non vi parte l'appunto, date la colpa a Bin Laden. Portare il puttana alla regia, io me ne foto della festa. Sei caliente, su che il cazzo, la saga continua. Cesco di sotto anche di testa, l'ambiente non è giusto e poi la gente non sa un cazzo. Spara! Un uomo solo corre al riparo, mi trovi nei locali più in, le tipe più in, e uso green, briago e piscio addosso un palo. Guardatemi così il mio problema, yeah! Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. È la stessa vecchia merda, prese riviste. È la stessa roba che pesta, te la tua lista. Con i maglioni rosa chiedi vino al barista. L'imbarazzo della scelta tra frocio fascista. Puoi dirti bipartisan, ma qui è degrado più che a Belgrado. Ogni locale locale in cui vado la mia anima ansima. Io non ho grana che fruscia, solo gente che usce. Entro nel club con Katiuscia. Make money money, ma qui c'è tuscia. Esci fuori con la busta in testa, ma non sei un pusher. Sono con te, sei vendetta come Monte Cristo. È la città che aspetta di mettermi in ponte. Cristo, parco l'avanzo precario, flessibile tu tubo innocenti sopra il tuo cranio. Niente va contrario, bastardi sani e salvi. Che volete da me? Io non ho più nulla da darvi. Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. Ite che rese che volete da me? Fanculo, fanculo. E spara. Ancora vivo Mashi. È la solita storia, raga. E non finisce. E non finisce più. E non finisce. E non finisce più. E non finisce. 2006. E Asha Guba. E Phantom City. Muori bastardo. Il lato è su un